Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Prove di dialogo tra Unione Europea e Russia dopo le sanzioni e i tanti mesi di tensioni. A San Pietroburgo c'è stato l'atteso incontro tra Juncker e Putin. Allora andiamo da Laura Bettini. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'incontro, se c'è stato, è stato privato. Pubblicamente Juncker ha parlato non in presenza del presidente russo e ha dato un colpo al cerchio ed uno alla botte nel suo discorso. Juncker ha detto: sono molto felice di essere qui, bisogna dialogare con la Russia. Sentiamo, questa è proprio l'apertura. We have those who like the idea that I'm here and we have those who don't like the idea, but I like the idea. Ma poi ha detto anche: la Russia ha assestato un duro colpo all'Unione Europea con il suo interventismo in Ucraina e con l'annessione della Crimea, e per questo la nostra strada insieme, Unione Europea e Russia, deve ripartire dagli accordi di Minsk, che vanno compiuti, ha detto Juncker, e questa sarà l'unica via per togliere le sanzioni. Questo l'ha detto ovviamente anche per pacificare gli animi dei paesi baltici, che hanno molto criticato la visita di Juncker e in essa hanno visto anche un tentativo di rinegoziare gli accordi di Minsk, per così dire. Le dichiarazioni del Presidente della Commissione comunque non hanno raffreddato del tutto le speranze di altri membri europei, Francia in testa, ma in parte anche l'Italia, che si augurano a breve un alleggerimento delle sanzioni. Piccola allusione anche alla Brexit: Juncker dice che si augura che gli amici britannici decidano di non uscire dalla famiglia europea, ma che comunque l'Unione sopravviverà. È tutto. E grazie a Laura Bettini. Oltre a Juncker, a parlare ancora di un eventuale Brexit, anche la BCE rappresenta un rischio per la crescita dell'Eurozona, dice senza mezzi termini questa mattina nel suo bollettino. Intanto l'Unione Europea si schiera contro il traffico di minerali insanguinati, i cui proventi alimentano troppo spesso gruppi di guerriglieri nelle aree di conflitto e servono a produrre cellulari, computer, gioielli. Abbiamo raggiunto l'accordo politico sugli obblighi legali, l'annuncio del commissario europeo al commercio Cecilia Malmström dopo la riunione dei negoziatori dell'esecutivo europeo, Europarlamento e Consiglio. Alcuni aspetti tecnici rimangono da definire, ma un'intesa importante, ha spiegato la Malmström. E diminuiscono le richieste d'asilo in Europa nel primo trimestre 2016 rispetto all'ultimo del 2015, secondo i dati Eurostat, ma l'Italia resta al secondo posto in Europa dopo la Germania per richieste ricevute, a seguire Francia, Austria e Gran Bretagna, richieste di asilo ancora da esaminare che hanno superato quota 1 milione. E gli arrivi, il numero di migranti sbarcati in Italia nei primi 5 mesi dell'anno, in linea con lo stesso periodo del 2015, ma a maggio ne sono arrivati 19.000, più del doppio rispetto ad aprile, dice Frontex. Arrivi soprattutto dall'Africa occidentale e dal Corno d'Africa. E di migranti si parla in questi giorni a Bruxelles. Nei giorni in cui l'Europa sembra sgretolarsi, con Parigi sotto attacco, Londra in fuga e Madrid inerme, a Bruxelles si fanno prove di ottimismo con le giornate europee dello sviluppo. Organizzate dalla Commissione europea a Bruxelles, hanno richiamato 5.000 persone di 140 paesi, 400 i relatori delle tavole rotonde e dei convegni, agenzie ONU, ONG, istituzioni europee. Si discute di dove e come intervenire per aiutare i paesi in via di sviluppo. Il budget dell'Unione è importante, 68 miliardi di euro all'anno, che ne fanno il primo donatore al mondo. Ma quest'anno si discute anche molto di migrazioni. Il Migration Compact, ci ha detto poco fa il commissario europeo allo sviluppo e cooperazione Never Mimica, che Renzi ha proposto, può rientrare in questo piano. La cooperazione può servire ad arginare i flussi. Per Eugenio Ambrosi, direttore dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni in Europa, quest'anno arriverà nel vecchio continente lo stesso numero di migranti dell'anno scorso. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E noi ci fermiamo qui per ora, ma l'Europa vi aspetta questa sera ad effetto notte. Oggi appuntamento con Youzone. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.